Ma tu, Betlemme di Efrata, la più piccola tra i clan di Giuda, da te uscirà per me colui che dovrà regnare sopra Israele. Le sue origini sono da tempo remoto, dai tempi antichi. Per questo li abbandonerà finché una partoriente non avrà partorito. Allora il resto dei suoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Egli si leverà e li condurrà al pascolo per la potenza del Signore, per la maestà del nome del suo Dio. Essi abiteranno sicuri, perché allora stenderà la sua potenza fino ai confini della terra. Egli stesso sarà pace. Se Assur invaderà la nostra terra e se calpesterà il nostro suolo, noi susciteremo contro di lui 7 pastori e 8 capi di uomini. Essi pascoleranno Assur con la spada e la terra di Nimrod con la lancia. Egli ci libererà da Assur se invaderà la nostra terra e calpesterà il nostro suolo. Il resto di Giacobbe, in mezzo a numerose nazioni, sarà come rugiada che viene dal Signore, come gocce d'acqua sull'erba, che non spera nell'uomo né attende nulla dai figli dell'uomo. Il resto di Giacobbe, in mezzo a numerose nazioni, sarà come il leone tra gli animali della foresta, come il leoncello tra i montoni del gregge, quando passa, abbatte, sbrana e nessuno gli toglie la preda. Si leverà la tua mano sui tuoi avversari e tutti i tuoi nemici saranno annientati. In quel giorno, dice il Signore, farò scomparire di mezzo a te i tuoi cavalli e distruggerò i tuoi carri. Distruggerò le città della tua terra e abbatterò tutte le tue fortezze. Strapperò dalla tua mano i tuoi sortilegi e non avrai più indovini. Distruggerò le tue statue e le tue stele di mezzo a te. Tu non ti prostrerai più davanti all'opera delle tue mani. Estirperò i tuoi pali sacri di mezzo a te e distruggerò i tuoi idoli. Prenderò vendetta con ira e con furore delle nazioni che non hanno obbedito.